Gabri, non ti chiudere a bomba. Su con la vita. Andre di Borgaretto. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il tuo antidepresso. Rimani connesso. L'8 novembre 1900 nasce Margaret Mitchell, scrittrice statunitense. M2O. Con la mia ragazza e fra poco accadrà un'orgia a suon di cammino. Sì. Ciccio da Catania. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Una goccia nel mare ascolta il cammino di Gigi D'Agostino e crea un'onda muovendosi a tempo che porta il suo sound alla terra e nel vento. Tiziano Deli, da Rieti. Un saluto speciale al mio amore Mariangela. Fausto da Capizzo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Sono Federica da Udine. Anch'io sogno di trovare una persona con cui condividere dei bei momenti. C'è qualcuno? C'è qualcosa di strano nell'aria, forse solo dentro me. Una cosa che col tempo varia e non sta ad aspettare. So che il tempo è passato ed io ho vissuto sempre con te. Credo in quel che ho provato. Sei solo un sogno, io ti prego stai con me, perché di te ho bisogno. Se qualcuno dicesse che tu sei solo un sogno, io ti prego stai con me, perché di storia, domandati perché, ricerca nella memoria quello che fu di te. Sempre. solo un sogno. Io ti prego, stai con me, perché di te ho bisogno. Se qualcuno dicesse che tu sei solo un sogno, io ti prego. Il cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. 333-64-67-662. Il cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello questo sabato 11 novembre al Papido Fashion Club, Corigliano Calabro, Cosenza. Like a river that goes to the sea, this is the way that it has to be. M2O, musica allo stato puro. Al mio amore Dario, che ho qui accanto, per dirgli che lo amo con tutta l'anima e il tempo passato con lui è stato meraviglioso. Un bacio anche al mio bimbo Steven. A Francesco di Santa Lucia. Io ti amo, perché non mi rispondi? Carmen 89. Sono Laura da Vergato. Mi fai ascoltare Per me amore? E basta chiedere, io sono qua apposta. Ilaria, ti amo. Orlando da Ravenna. Mi piace guardarti giocare. Mi piace vedere la gioia nei tuoi occhi. Mi piace sentire le tue lacrime sul mio petto quando ci perdiamo nei nostri abbracci. Sentire quel pianto è una stretta al cuore. Amore in quelle mani quando si stringono le mie. Riesco solo a non dire niente quando vorrei dirti tutto quello che siamo da quando ci sfioriamo. Non so cosa vuol dire amore. Forse vuol dire sentirsi vivi. Forse vuol capirlo. Forse vuol capirlo. Forse può capirlo e spiegarlo solo chi non ha amato.